9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon inizio di settimana, buon 7 dicembre, Sant'Ambrogio, naturalmente festivo a Milano, ma in tutta Italia no. Di cosa parliamo oggi? Il tema è pressoché obbligato della conferenza sul clima di Copenaghen. Tenteremo di capire quali obiettivi siano realistici, quali previsioni siano realistiche e quali costi, cosa di cui si tende di solito a non parlare, siano davvero sopportabili per un paese come il nostro, che non è tra quelli che poi ha le emissioni peggiori, ma certo fa parte del continente europeo che si addossa da sempre le responsabilità invece più pesanti. Diteci che cosa ne pensate, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Intanto la linea al giornale radio. Le 9 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Stallo per tutta la notte in commissione per il voto alla finanziaria, manovra blindata e l'opposizione protesta. Inizia oggi la lunga conferenza sul clima a Copenaghen, anche il Papa chiede di salvare il pianeta. Dopo la condanna di Amanda Knox a Perugia, Hillary Clinton disponibile ad ascoltare chi ha dubbi sul caso. Polizia antisommossa schierata a Teheran per fermare possibili manifestazioni. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Massimo Di Scienza. In primo piano la legge finanziaria che arriverà in aula alla Camera mercoledì, ma l'esame del testo è attualmente fermo in commissione bilancio, dove si è discusso per tutta la notte senza ancora arrivare ad alcun voto. L'opposizione protesta perché la manovra di fatto è blindata e nessuna proposta viene accolta, nonostante gli emendamenti della minoranza siano stati ridotti a 200. PDL e Lega invece hanno ritirato tutte le proprie proposte di modifica, visto il maxi emendamento che di fatto ha riscritto la finanziaria. Ed ora la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si apre tra un'ora in Danimarca. Anche il Papa ha fatto un appello ai leader mondiali affinché trovino un accordo per una riduzione dei gas inquinanti, soprattutto per salvare il futuro dei giovani. Per molti osservatori il vertice è l'ultima grande occasione per cambiare la rotta del pianeta. Auspico che i lavori aiuteranno ad individuare azioni rispettose della creazione e promotrici di uno sviluppo solidale, soprattutto verso i poveri e le generazioni future. Del vertice di Copenaghen ci occuperemo, come avete sentito, tra poco in 9 in punto. Ora parliamo della condanna di Amanda Knox a 26 anni di carcere per l'omicidio di Meredith Kercher. La vicenda anima anche parte del dibattito politico statunitense e il segretario di Stato Hillary Clinton si dice pronta ad ascoltare chiunque abbia dei timori su come la vicenda è stata gestita. C'è sempre Amanda Knox al centro della vicenda giudiziaria che è seguita all'omicidio di Meredith Kercher. Ora la giovane di Seattle sembra aver vinto un concorso letterario indetto tra i detenuti del carcere di Perugia, con un racconto molto simile a quanto accaduto forse nella casa per studenti di Via della Pergola oltre 2 anni fa. La condanna di Amanda a 26 anni di reclusione per l'omicidio della sua coinquilina inglese rischia di diventare anche un caso diplomatico. La senatrice democratica americana Maria Cantwell infatti ha parlato di una condanna senza prove evidenti. Nessuna preoccupazione in proposito è stata espressa però dal segretario di Stato USA Hillary Clinton, che si è dichiarata disponibile ad affrontare l'argomento se necessario. Intanto ieri, con un volo diretto da Perugia a Londra, la famiglia Kercher al completo ha lasciato il capoluogo umbro. Il padre di Amanda, Kurt Knox, invece sembra intenzionato a rimanere in Italia per stare vicino alla figlia. Si sarebbe licenziato dal lavoro e starebbe cercando un'occupazione nel nostro paese. Daniele Morini, GR24, il sole 24 ore, Perugia. In Iran, ingenti forze antisommossa sono state schierate dalle prime ore di oggi attorno alla principale università di Teheran per prevenire manifestazioni dell'opposizione in occasione della giornata dello studente, celebrata ogni anno ufficialmente dal regime. L'opposizione iraniana è viva nonostante le pressioni del regime di Teheran. Con queste parole apparse sul suo sito internet, il leader riformista Mir Hossein Mousavi torna sotto i riflettori dopo settimane di silenzio e lo fa alla vigilia di nuove manifestazioni previste per oggi. È amaro constatare che gli stessi errori vengono ripetuti dalle autorità che insistono che l'era delle riforme è conclusa, scrive Mousavi. A differenza di centinaia di giovani che manifestarono sono contro Ahmadinejad la scorsa estate, Mousavi non è stato arrestato. A ottobre, però, un centinaio di parlamentari chiesero di metterlo sotto processo. Oggi il regime, che teme ogni forma di protesta, schiererà le sue forze di polizia pronte a reagire severamente e nessuno potrà sapere cosa realmente accadrà in Iran, dal momento che ai media internazionali è stato impedito di coprire le manifestazioni. I giornalisti potranno lavorare solo dal proprio ufficio, ma i collegamenti ai siti internet internazionali saranno bloccati o resi difficoltosi. Anche l'ex presidente Rafsanjani è intervenuto invocando la costruzione di un'atmosfera di libertà e lamentando che nel paese non vi è tolleranza per le critiche costruttive. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. In Pakistan almeno due persone sono morte in seguito all'esplosione di un ordigno davanti al tribunale di Peshawar nel nord-ovest del paese. Torniamo sull'esame della finanziaria alla Camera. Ci sono aggiornamenti, i lavori di nuovo sospesi in commissione bilancio dopo la nottata, vi dicevamo, nella quale non c'è stato alcun voto. Infatti le opposizioni hanno chiesto di riferire al presidente della Camera Fini. La seduta è stata sospesa, riprenderà tra un'ora e trenta circa e non è escluso, pare, che le opposizioni possano abbandonare i lavori della commissione. Adesso, per seguire l'apertura della settimana sui mercati finanziari, la linea a Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Buongiorno Massimo. Allora, il mercato chiaramente sta ancora ragionando sul dato sull'occupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso. In novembre l'economia se le strisce, ha perso 11.000 posti di lavoro, un dato nettamente migliore delle attese. La disoccupazione è scesa al 10%, dal 10,2% della rilevazione precedente, e su questa indicazione sia Wall Street che l'Europa venerdì avevano chiuso in territorio estremamente positivo, e tra l'altro il dato aveva dato un netto slancio al dollaro in forte recupero sull'euro a 1,48,55. Dopo i rialzi di venerdì, però, oggi l'Europa parte più cauta, abbiamo dei cali di mezzo punto ovunque, Milano perde lo 0,46%. I migliori titoli nelle prime battute: Geox più 0,59, STM più 0,35, Ubibanca più 0,30%, cali pronunciati invece di oltre un punto su Tenaris Fiat, Prismian, Finmeccanica e Impregilo. Un'ultima occhiata al petrolio, che stamattina è sui $76 al barile, e per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani, il prossimo GR24 alle 10. Fare di più con le risorse che hai? Facile con Windows 7 e Office 2007. Fino al 31 dicembre 2009, con uno sconto fino al 35% su Windows 7 e fino al 30% su Office 2007. Affrettati! Offerta soggetta a restrizioni. Microsoft.it/innovare. Tesoro, ma stai una meraviglia! Hai un aspetto davvero prosciutto di Parma! Trovi? Se dici prosciutto di Parma, hai detto sano. Tante proteine nobili, digeribili ad ogni età. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma. Tutti pazzi per Opel, prezzi shock su tutta la gamma. Un esempio: corsa da 7.900 euro con ESPI Plus e clima, con rottamazione. Affrettati, tutti gli incentivi scadono a dicembre. Il massimo è solo ora. Tutti pazzi per Opel, sabato e domenica. Quando un uomo senza TV Full HD incontra un uomo con una TV Full HD e poi incontra anche una donna, un bambino e un cagnolino con una TV Full HD, vuol dire che lui è l'unico senza. Ed è un grandissimo sfigo. Con Sky c'è una TV Full HD per tutti, a partire da 6 euro in più al mese. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita autorizzati. Offerta valida fino al 27 dicembre 09. 6 euro importo minimo mensile per una TV 32 pollici in aggiunta al canone di abbonamento Sky. Info e listino su sky.it. Nel silenzio scorre il tempo, amico. Luna dopo luna. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il mastro distillatore. Sì. Ecco le 18 lune. Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare. Dal mondo dell'economia aprono in leggero rialzo i mercati finanziari, bene i tecnologici, ma soprattutto Marco ha alzato l'indice e ha fatto un sorriso. Sono queste le azioni che valgono di più, perché la ricerca è il miglior investimento per il futuro. BNL per Telethon nella lotta contro le malattie genetiche rare. L'11 e il 12 dicembre ti aspettiamo con un'apertura straordinaria presso le nostre filiali. Versa il tuo contributo. BNL Gruppo BNP Paribas. La banca per un mondo che cambia. Ciao Marco, Senti, hai visto la mia carta ESSO Extras? Ma non è scaduta. Eh no, dobbiamo conservarla. I punti valgono anche l'anno prossimo. Ah, è quella arancione? Sì. Ah, e c'erano molti punti? Eh sì, un sacco. No, non l'ho vista. ESSO Extras. Scopri i nuovi premi dal televisore al beauty case. Continua ad usare la tua carta e ricorda che i punti saranno validi anche per i premi ESSO Extras 2010. Operazione a premi. Un litro di carburante uguale un punto ESSO Extras. Catalogo, info, limitazioni e regolamento su essoextras.com. 9 in punto. La versione di Oscar. Buon 7 dicembre da Oscar Giannino. Non sentivo il ritorno in cuffia, ma spero che abbiate sentito i miei auguri iniziali. E ci occupiamo del vertice di Copenaghen. Prima di presentarvi i nostri ospiti, brevissimamente solo qualche numero. Devo dirvi la verità, in questo caso la scelta dei numeri attraverso i quali far introdurre il tema è delicata, perché mai quanto in un vertice di Copenaghen sui numeri la comunità scientifica innanzitutto, e poi la complessità degli interessi che gravano intorno alla questione climatica divergono radicalmente, riproponendo una delle consuete questioni con cui ci troviamo sempre a che fare, cioè con l'incondivisione di strumenti quantitativi, di modelli matematici, di un linguaggio quantitativo che viene accettato da tutti come in grado di descrivere i fenomeni. E quando non si è d'accordo su fenomeni quantitativamente condivisi, certamente risulta molto più difficile poi aggredire i problemi. Comunque, dico questo perché voi sapete che arriviamo a questa conferenza di Copenaghen essendo freschi di questo grande giallo internazionale, e cioè il leaks, la rivelazione di molte centinaia di mail da parte dell'Università dell'East Anglia, uno dei centri dell'IPCC, cioè l'International Pulse of Climate Change, l'organo consultivo meglio dei climatologi del mondo per le Nazioni Unite, che ha costituito per anni l'esame quantitativo che costituisce l'argomento di fondo della questione climatica, e secondo la quale appunto siamo sicuramente in un'epoca di grande condizionamento del clima da parte dell'uomo, il cosiddetto la tesi antropogenica, si va al riscaldamento globale, la colpa del CO2 e così via, se non che queste mail rivelavano che gli scienziati convinti di questa tesi tendevano ad abolire il principio della peer review, cioè a dire noi mettiamo solo quello che conferma questa nostra convinzione, perché dobbiamo impedire che ai politici arrivano voci contrarie. Comunque, in ogni caso, comunque la si pensi sul grado di attendibilità troppo recente delle nostre relazioni climatiche, fa notare il supplemento del Financial Times che solo dal 1865 abbiamo dei dati in qualche misura seri, e solo in realtà d'inizio al Novecento dati davvero attendibili e scientificamente rilevanti per costituire serie storiche, e comunque la pensiate su questo argomento. Vi ricordo quali sono alcuni dei punti di questa conferenza di Copenaghen, che arriva praticamente allo scadere degli accordi di Kyoto, che per chi li ha firmati, non certo gli Stati Uniti, ma sì certo l'Europa, scadono nel 2012 e sono falliti in buona sostanza, perché ricordo che solo l'Europa ha fatto qualche timido passo avanti su quegli obiettivi così energicamente assunti al protocollo di Kyoto. In ogni caso, i numeri di fondo del vertice di Copenaghen, 192 paesi che si apre oggi, sono quelli di considerare come impedire che l'aumento globale della temperatura cresca di altri 2 gradi, perché l'IPCC diceva che addirittura andiamo a 6 gradi di aumento con conseguenze devastanti per l'intero pianeta, e l'obiettivo è quello di stabilizzare, quindi, e poi naturalmente per stabilizzare bisogna tagliare le emissioni di gas climalteranti, l'obiettivo è quello di arrivare a un tetto massimo, ma bisogna stare molto al di sotto di quello, di concentrazione di CO2 sotto i 450 parti per milioni, perché altrimenti se si supera quello, dicono gli scienziati di IPCC, si arriva a 6 gradi di aumento al 2100 e la Terra non è più come prima. Per questo l'obiettivo sarebbe quello di cadere dal presente livello, che è più o meno di 47 miliardi di tonnellate di emissioni di gas climalteranti per anno, e alcuni dicono che bisogna scendere fino a 20 miliardi al 2050 dai 47 di oggi. Naturalmente dai 47 ai 20 il problema diventa come ci si ridistribuisce le quote, e qui c'è il grosso problema di tutte le conferenze climatiche, perché c'è lo scontro non solo tra i paesi avanzati e i paesi meno avanzati. Ricordo tutti che noi emettiamo più o meno pro capite un terzo in Italia dei gas climalteranti di quanto facciano gli Stati Uniti, ma il problema non è tanto l'emissione pro capite, non è solo l'emissione pro capite, ma l'emissione globale. La Cina è diventata la prima emettitrice al mondo, quindi c'è una questione di bilanciamento tra paesi avanzati e paesi non avanzati, ma c'è un problema di bilanciamento tra i paesi che sono emergenti, che trainano l'economia mondiale, rispetto a quelli che sono oggi in difficoltà. Poi nell'attribuzione delle quote tenete conto che c'è anche una frattura molto evidente tra paesi che sono più rivieraschi e paesi che stanno al centro invece delle aree continentali, perché è ovvio che rispetto al possibile innalzamento delle acque chi è rivierasco è più interessato e chi è al centro invece delle grandi piattaforme continentali molto meno. Vivono entro 100 km dalle coste non più del 37-38% della popolazione mondiale. Naturalmente questo discorso non interessa molto 100 dei 192 paesi che sommati sono i più poveri e emettono a malapena il 3% delle emissioni, e diciamo il grande problema è se questa volta si riesce a convincere a qualche cosa gli Stati Uniti, che come sapete al Senato bocciarono clamorosamente Kyoto. Obama ha svoltato, ha virato, ha abbracciato la prospettiva verde, lo ha fatto con numeri che apparentemente sono molto molto molto impegnativi. In realtà lui si è impegnato a tagliare del 17% le emissioni da qui al 2020, e quindi sembrerebbe quasi un 20-20-20 come quello, i tre obiettivi sintetici dell'Europa. Invece il punto non è questo, perché Obama prende a riferimento il 2005 e non il 1990 come fanno invece gli europei, che in questo sono in prima linea, dei veri sansepolcristi della politica ambientale. E quindi il taglio proposto da Obama rispetto all'idea del 2005 sarebbe un taglio al 2020 solo del 4% delle emissioni, quindi una cosa molto ridotta. Allora, oltre al problema su come bilanciare, alcune questioni di fondo e poi mi avvio a concludere. Certamente la questione del clima si affronta soprattutto attraverso interventi pubblici dello Stato, perché è un classico intervento di quelli studiati da il vecchio grande economista Pigou, che proponeva che sulle esternalità negative, conseguenza di consumi individuali o di imprese che hanno una ricaduta negativa per tutti gli altri, si deve intervenire con delle tasse ad hoc, e la cosiddetta carbon tax, per esempio, è un buon esempio di tassa piguviana. Si parlerà non solo di carbon tax, ma si parlerà anche del cosiddetto cap and trade, cioè del sistema attraverso il quale chi supera i tetti per le emissioni può rientrare con i certificati verdi. Sono due strade abbastanza alternative, ma non è detto che possano essere anche concomitanti. Questi e solo questi alcuni dei problemi. Ogni giornale ha dedicato grande spazio a questi temi, lo ha fatto ciascuno al riparo delle proprie convinzioni, nel senso che per esempio anche giornali come La Stampa, nel loro supplemento domenicale, nelle loro 15 domande e 15 risposte sul problema, alla domanda per esempio in cui si diceva alcuni scienziati mettono in dubbio il legame tra il gas serra e i cambiamenti climatici in corso, quindi la scienza sta ribaltando le proprie prospettive sulla causa dell'effetto serra, la risposta per esempio era netta, e secondo me troppo netta, perché dice: falso, migliaia di documenti ufficiali parlano del cambiamento del clima e la teoria del riscaldamento globale ha un enorme consenso. Secondo me il dubbio su la questione antropogenica del cambiamento climatico è più che legittimo, chiunque abbia diffuso queste mail dell'Università di East Anglia. Addirittura il panel climatologico, quello ambientalista più fervente, l'interrogante dice che si tratta di hackers pagati da Mosca che vuole disastrare il processo di convergenza mondiale per il contenimento delle emissioni, perché come è noto Mosca in crisi non è interessata, ma siccome nessuno è particolarmente pronto a credere che sia Mosca a dare il contributo maggiore, mi sembra una teoria complottarda. Anche da questo punto di vista, su questa delicata questione su cui tutti si devono impegnare, un po' di sani dubbi sono forse legittimi, perché di fondo la questione è di molte migliaia di miliardi, sia che li valutiate in dollari che in euro, attraverso cui passano gli incentivi. Senza incentivi tutta la svolta verde non c'è, sono gli stati a darli, e su questo ci sono enormi interessi che stanno combattendo, forse alcuni di loro anche pensando che è bene che i cittadini si spaventino molto, e non c'è niente di male in questo. Gli interessi economici combattono per avere la meglio e per aggiudicarsi questi incentivi. È anche vero che noi ci dobbiamo occupare dei costi terribili che vengono chiesti invece alle imprese tradizionali se l'Europa continua a fare da battistrada per assumersi la parte preminente della messa in regola di questi obiettivi nelle nostre economie, come se non bastassero i guai della crisi. Allora, fine, non dico più nulla, vi presento i nostri ospiti che sono di punti di vista diversi, perché diverse sono le questioni da tenere in considerazione. Innanzitutto abbiamo Carlo Corazza. Buongiorno Corazza. Buongiorno. Direttore della rappresentanza della Commissione Europea a Milano, autore del libro Eco Europa. Carlo Corazza, chiediamo soprattutto di spiegarci che cosa l'Europa tenterà di fare al tavolo di Copenaghen. Abbiamo poi insieme a noi Carlo Stagnaro, direttore energia e ambiente dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Una parte un pochino più da scettico invece. E Aldo Fumagalli, il presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile in Confindustria. Buongiorno dottor Fumagalli. Buongiorno a voi. Corazza, lo so che sono stato troppo scettico, ora mi taccio. Tentiamo di dare una versione invece più eco-popolare della faccenda. No, è molto utile sempre avere dei dubbi, però in realtà in questo momento il dibattito si è abbastanza spostato su come tagliare nel modo più efficiente possibile le emissioni, cioè si dà abbastanza per scontato a livello mondiale che c'è una grossissima probabilità di legame tra l'attività dell'uomo e il riscaldamento del pianeta, e che non fare nulla potrebbe costarci moltissimo. C'è il rapporto famoso dell'economista Stern che parla di un costo dal 5 al 20% del PIL mondiale. Per questo l'Europa si è mossa in anticipo già dal 2007, delineando una strategia in realtà voluta dal paese più industrializzato che abbiamo in Europa, proprio dalla Germania. Questa strategia ha portato a degli impegni già vincolanti che servono già a chi vuole investire nel nostro continente, per cui andiamo a Copenaghen da leader, cioè dando noi un po' le carte e cercando noi di convincere anche gli altri grandi player, i paesi in via di sviluppo, a impegnarsi anche loro. Fumagalli, noi andiamo da leader, ma c'è chi ribatte che i tedeschi su questo hanno, dalla loro scelte di politica industriale che hanno fatto, che li rendono leader nel nostro continente su grandi segmenti, dal fotovoltaico e così via. Insomma, i tedeschi, come è giusto, su questo ci hanno creduto, hanno molto investito, hanno anche di che guadagnare di questa prospettiva. Non è detto che per tutte le altre economie europee, soprattutto per quella italiana, il trade-off tra guadagno e rischio da impedire, su cui tutti convergono, sia altrettanto nettamente inutile, piuttosto che invece chiedere investimenti molto pesanti. Su questo la posizione di Confindustria qual è? Ma i tedeschi sono molto pragmatici e per alcuni versi anche in parte lungimiranti, perché hanno iniziato una politica di sostegno intelligente al sistema economico nazionale per tempo, cioè quando si capiva l'importanza di andare verso l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, cioè 7, 8, 9 anni fa hanno messo in campo quello che l'Italia sta facendo adesso, cioè dei piani di incentivi volti a favorire lo sviluppo tecnologico delle aziende in questo settore. Però i tedeschi sono anche pragmatici, dicevo prima, perché in realtà due settimane fa hanno firmato una lettera, il presidente della Confindustria tedesca, al cancelliere Merkel, così come il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, a Berlusconi, la stessa identica lettera che diceva: va bene sì che l'Europa dia il là, faccia vedere la strada, però bisogna farlo in maniera tale che a Copenaghen, o se non a Copenaghen, in tempi stretti, quando saranno pronti tutti a prendere impegni vincolanti, questi impegni vincolanti indichino regole al contorno uguali per tutti, perlomeno uguali per tutti i paesi industrializzati, cioè le aziende europee, manifatturiere in particolare, quelle tedesche e quelle italiane, sono forti in Europa, perché entrambi i nostri paesi hanno un tessuto molto forte di aziende manifatturiere, queste aziende competono sui mercati internazionali con aziende americane, canadesi e australiane, quindi i vincoli devono essere comparabili ed equivalenti, e anche i paesi in via di sviluppo potranno avere un po' più di flessibilità, un percorso un po' meno rigido, ma anche loro devono averli questi vincoli e questi percorsi obbligati, altrimenti si distorce la concorrenza. Quindi il modo economico, più che guardare a come prendere gli incentivi, in parte gli incentivi sono anche importanti in questo settore, come diceva lei all'inizio, ma è preoccupato di evitare distorsioni competitive che emergano dalle decisioni di Copenaghen. Stagnaro, diciamo che io mi tengo il mio dubbio sul fatto che anche la scienza sia diventata maggioritaria come la politica in Italia, cioè chi è fuori dal mainstream viene considerato una specie di rompiscatole, mentre può essere, come ci ricorda i grandi studiosi della rottura dei paradigmi scientifici, talvolta nella scienza ha ragione neanche uno che va contro il corso consolidato. E quindi io ho dei dubbi, io mi tengo i miei dubbi sul fattore antropogenico del riscaldamento climatico, ma al di là di questo, la sua opinione intorno ai grandi blocchi, i paesi emergenti hanno davvero qualche interesse a sottoscrivere obiettivi di questo tipo? Io direi di no, ma lei che pensa? Beh, a me pare che abbiano risposto loro stessi a questa domanda. È di pochi giorni fa una presa di posizione durissima dell'India contro qualunque obiettivo vincolante che richiede ai paesi in via di sviluppo dei sacrifici in termini di crescita economica, mentre la Cina ha preso una strada solo apparentemente più morbida. La Cina si è assegnato un obiettivo di riduzione dell'intensità carbonica, cioè del rapporto tra emissioni di gas a effetto serra e prodotto interno lordo del 40-45% entro il 2050. Questo di fatto, se noi guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, significa poco più che continuare una tendenza che è già in atto, quindi i cinesi ci hanno venduto quello che già avevano. E da un punto di vista, come dire, etico-morale, non si può dire che fanno bene, non si può dire altro se non che fanno bene, nel senso che questi paesi sono appena messi nella condizione di potersi comprare il frigorifero, ci hanno preso gusto e ora vogliono la lavastoviglie, e non vedo con che faccia noi potremmo andare da loro e dirgli di no. Cioè il nostro argomento sarebbe che quando noi ce la compravamo non eravamo consapevoli dei danni che facevamo, ora che ne siamo diventati noi consapevoli, per favore loro non se la comprino. Beh, loro risponderebbero: allora cominciate a rinunciare voi alla vostra lavastoviglie, cosa che non mi sembra nessuno stia proponendo, grazie a Dio, in Europa o in America o in altre parti del mondo industrializzato. Piuttosto mi sembra che questi meeting internazionali e a Copenaghen si raggiunge un pochettino il vertice in questa tendenza, abbiano posto troppa enfasi sugli obiettivi quantitativi di relativamente breve termine, tagliare le emissioni di tot per cento entro l'anno tale, e relativamente meno enfasi sulla opportunità e possibilità di favorire un processo di innovazione e trasferimento tecnologico che abbia un orizzonte più lungo, che sia soggetto evidentemente a una minore misurabilità, ma che possa anche dare risultati più promettenti, che in fondo è quello che dicono i cinesi. Loro dicono: aiutateci ad adottare le vostre tecnologie, cercate voi di sviluppare assieme a noi tecnologie ancora più pulite, e solo in questa maniera sarà possibile ridurre l'impatto ambientale senza sacrificare lo sviluppo economico. Ora pubblicità e torniamo dopo un paio di minuti. Assicurazioni? Ce ne sono tante. Quelle che danno il meglio per due mesi, quelle che risponde sempre Guido e anche quelle con i superpoteri. Io ho scelto Dialogo perché volevo un RC Auto semplice, economica e con un ottimo servizio. Facile, no? Chiama l'800-33-1166 o vai su dialogo.it. Dialogo, dove tu vali di più. Lo splendore dell'estremo oriente. Il potere suggestivo del Giappone. Giappone, potere e splendore. 1568-1868. A Milano 200 capolavori dai più prestigiosi musei giapponesi. Dal 7 dicembre all'8 marzo 2010 a Milano, Palazzo Reale. Fiat Show presenta Il Poeta. Le temps qui passe, le temps passe pour moi, passe pour toi, passe pour lui, passe partout. Les incentives à la rotation finissent. Queen, move, move. Fiat ti offre su tutta la gamma il massimo degli ecoincentivi, fino a 6.000 euro e in più un finanziamento a tasso zero e anticipo zero. TAEG 390, offerta valida fino al 31 dicembre 2009. Affrettati, gli incentivi statali stanno per scadere. Non attendere il 2010 per rinnovare i tuoi server. Ti servono adesso. Da IBM una grande novità per la tua impresa. Se acquisti una soluzione IBM Blade Center o un nuovo server system X3650-3550M2, IBM ritira gratis e supervaluta fino a 3 vecchi server a partire da 200 euro, di qualunque marca e modello con processore Intel. Attiva l'offerta, chiama 800-86-46-22 o visita ibm.com/it/trade-in entro il 31 dicembre. Tau con G è uguale a meno G per M fratto R. No, è impossibile. Non ce la faremo mai. Ci vorrebbe un caffè. Quando hai bisogno di ricaricarti. Ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho. Passa, passa. Passa a me. Pocket Coffee, la carica del caffè, l'energia del cioccolato. Adesso va molto meglio. Ma sai che era facile? Vai, vai. Pocket Coffee, carica ed energia, sempre con te. E.ON pensa alla tua tranquillità con E.ON Energia Assicurata, una fornitura di energia elettrica del mercato libero, le cui condizioni economiche avranno durata di 12 mesi, con in più la copertura assicurativa gratuita. Per tutte le condizioni contrattuali, 800-999-777. Amore, lei è Ingrid, mi ha fatto passare un mal di testa. Ma non avevi Moment? Sì, ma avevo più male del solito e lei mi ha dato Moment Act. Moment? Act. Ti è passato, vedo. In un act. Mal di testa è questione di Moment e quando si fa sentire di più c'è l'azione analgesica di Moment Act. Auf Wiedersehen. Addio. Adesso facciamo i conti. In un act. Su, amore. Sono medicinali a base di ibuprofene che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Da Angelini. Buongiorno, ora io fa esperimento, mette prezzo shock di gamma Opel davanti a essere umano perfettamente sano e fetere effetto. Visto? Impazzito di gioia! Avanti un altro! Tutti i passi per Opel, prezzi shock su tutta la gamma. Un esempio? Meriva da 11.900 euro con ESPI Plus e Clima. Con rottamazione, l'offerta è limitata. Affrettati! Tutti gli incentivi scadono a dicembre. Il massimo è solo ora. Tutti i passi per Opel, porte aperte, sabato e domenica. Non è una missione impossibile avere una TV Full HD. Ne è una il panettiere, il salumiere, la guardia giurata. Forse dovrei smettere di stare attaccato al soffitto con dei fili e prenderne una anch'io. Sì. Mi sembra una missione possibile. Con Sky c'è una TV Full HD per tutti, a partire da 6 euro in più al mese. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita autorizzati. Offerta valida fino al 27 dicembre 09. 6 euro importo minimo mensile per una TV 32 pollici in aggiunta al canone di abbonamento Sky. Info e listino su sky.it. 9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno, eccoci tornati in studio. Stiamo occupandoci delle questioni al centro della conferenza sul clima a Copenaghen. Tornerei con Corazza a vedere quale può essere il compito dell'Europa dal punto di vista degli obiettivi politicamente perseguibili. Il ministro Prestigiacomo oggi, in un intervento sul Sole 24 Ore, dice l'essenziale è che quantomeno da Copenaghen si esca con un quadro perseguibile che consenta all'Europa poi di passare davvero alla limatura degli obiettivi, ma che ci si dia una prospettiva temporale che tenga insieme gli Stati Uniti da una parte, l'Europa, i paesi emergenti che arrivano al vertice con prospettive di obiettivi ancora non condivise praticamente per nulla, come abbiamo visto dal nostro primo obiettivo. Molto fumo, ma se si va a vedere dietro questi numeri, i paesi emergenti dicono non possiamo essere noi ad adottare questi obiettivi, pensateci voi, e gli Stati Uniti hanno ancora oggi, sia pur dopo la svolta di Obama, obiettivi quantitativi che non sono sulla lunghezza d'onda europea. Come si può immaginare che questa cornice resti aperta e per quali tempi ancora e con quali obiettivi davvero in una seconda fase dopo Copenaghen? Davvero così, cioè l'essenziale è non litigare e tentare di stare uniti a un tavolo successivo, perché mi pare che il dopo Kyoto abbia dimostrato che il dopo Kyoto non è che è riuscito a tenere insieme i pezzi, anzi. Ma innanzitutto la volontà politica degli Stati Uniti, della Cina e direi anche dell'India, del Giappone è secondo me positiva. Tutti questi paesi hanno interesse a chiudere un accordo, la Cina e l'India perché hanno delle preoccupazioni molto serie anche sui ghiacci dell'Himalaya, sono i climatologi cinesi più preoccupati in questo momento, che se spariscono parte dei ghiacci dell'Himalaya ci sono dei fiumi importantissimi per l'agricoltura, per l'alimentazione di 2 miliardi e mezzo di persone che rischiano in tempi abbastanza brevi di essiccarsi. Gli Stati Uniti hanno dimostrato di volersi impegnare, devono far passare una legge al Senato, ma insomma l'accordo politico in sostanza non è così lontano. Qualora non si riuscisse ad avere un accordo anche giuridico a Copenaghen, l'orizzonte europeo, quello che noi ci auguriamo è che nei prossimi 2 o 3 mesi, massimo 6 mesi, si arrivi anche a un accordo giuridico. È evidente che l'Europa non vuole penalizzare le sue imprese, specialmente in questo momento, quindi non, l'Europa non accetterà di impegnarsi al di là di quello che può creare uno svantaggio competitivo serio per le proprie imprese. E in ogni caso, come nella legge americana c'è uno strumento di antidumping ambientale, così probabilmente anche l'Unione Europea, in caso di fallimento, cosa che io ritengo molto improbabile, si attrezzerà per tutelare gli interessi delle proprie imprese. Oh, benissimo, quindi diciamo che c'è un realistico presa d'atto che la fiducia è diventata una parola d'ordine pressoché necessaria. Comunque siamo in un mondo molto più convergente rispetto all'era Bush, questo è un dato di fatto assoluto. Proporrei qualche telefonata e poi ancora torniamo con i nostri ospiti. Innanzitutto Salvatore da Bologna, prego Salvatore. Ah, salve, buongiorno. Senti, ci dica. Io ieri sera ho visto alle 8 in prime time il TG1 che diffondeva della propaganda di bassissima qualità, paragonando la CO2 a un gas tossico. Però, come dicevo alla vostra collaboratrice, la CO2 è prodotta da qualunque essere vivente. A meno che non si voglia proibire la vita sulla Terra, proibiamo la CO2. Oppure, a me sembra che veramente si stia ricreando la lotta di classe al contrario, i ricchi contro i poveri, con questa conferenza di Copenaghen. Mi sembra che... Salvatore, naturalmente il problema è che CO2 è legato alla vita, naturalmente dipende dalla sua concentrazione. Adesso non mi faccio entrare in difficoltà, io già ne ho abbastanza in questa trasmissione. Se mi parla anche del TG1 come un organo di propaganda, gli schiaffi che si abbattono su di me si iniziano a moltiplicare un po' troppo. Comunque, come si vede, ci sono ascoltatori che poi ravvisano degli eccessi nell'informazione. Angelo da Bergamo, prego Angelo. Pronto? Dica. Io volevo segnalare una cosa. Sono uno dei tanti utilizzatori di un diesel Euro 2 che la regione Lombardia ha messo al bando. Mi sembra che in Bergamasca siamo sui più di 40.000 utilizzatori. Ma volevo far notare una cosa. Allora, va bene, a me sta bene che la mia macchina non debba più inquinare in Lombardia, ma la mia macchina io la tengo bene come tanti altri. E non riesco a capire perché la mia macchina, che dovrebbe essere rottamata, magari la settimana dopo te la vedi sulla bisarca che va in Romania, in Marocco o da altre parti ad inquinare. Quindi lei dice emette comunque. La mia macchina, ma guardi che questo discorso è come uguale ai motorini. Allora, se lei guarda i carrellini dei rumeni che vanno in Romania con delle moto bellissime, che qui da noi non possono più girare, ma ci sono delle moto bellissime. Allora, dico, se allora siamo seri tutti, dobbiamo fare una cosa a livello internazionale, per cui l'Euro 2 inquina qui, non può più inquinare qui, non può più inquinare da nessuna parte. Perché... Angelo, vede che però lei giustamente dice ci vogliono accordi di cooperazione internazionale, quindi in realtà Copenaghen a questo serve. Claudio da Prato ancora, prego Claudio. Sì, ma io unirei le telefonate che mi hanno preceduto e soprattutto le parole dell'esperto per dire che queste riunioni in realtà dovrebbero essere fatte in Fondo Monetario Internazionale, perché il problema dell'inquinamento è un problema prettamente economico. È evidente che la scelta del tipo di società in cui si vive produce determinati effetti sull'ambiente, è sempre stato, l'uomo ha sempre avuto rapporti difficili con l'ambiente, l'isola di Pasqua è come è ora perché qualcuno la desertificò per scelte economiche del momento di allora, parliamo di 500 anni fa, quindi è sempre stato difficile il rapporto con l'ambiente. Però qual è il punto centrale? Noi abbiamo scelto una società, quella consumistica, che ha determinate caratteristiche e che ha determinate leggi economiche che la regolano. È evidente che nel momento in cui noi abbiamo delocalizzato, tanto per sintetizzare, le produzioni inquinanti nei paesi in via di sviluppo, dicendoli che era la loro strada per arrivare a possedere e utilizzare beni di consumo, cioè creando ricchezza se li potevano permettere, il discorso diventa difficilissimo. Quindi è inutile che noi andiamo a immaginarsi chissà cosa. Il problema di fondo è che anche sull'inquinamento sono fondamentali le scelte economiche. È evidente che se noi non cambiamo approccio all'economia non andiamo da nessuna parte. È inutile che l'Europa strepiti e strilli nel momento in cui le sue imprese sono andate a delocalizzare le produzioni inquinanti da prima in Romania, poi in Cina, poi in India e via discorrendo. Quindi è un problema globale che si risolve in maniera difficilissima, perché è evidente che se io pongo sempre come alla base della società il possesso del bene di consumo, dell'oggetto, io ho due problemi, produrlo e smaltirlo, e su quelli non se ne sorte. Grazie sì. Claudio, grazie Claudio, tenderei a stare un po' più concentrato sul problema delle emissioni, perché se ci estendiamo in Filippi che pro o contro il modello di consumo generale, i toni savonaroniani, insomma, secondo me consentono sempre di fare ancora più confusione. Già la questione è molto delicata e complessa. Fumagalli, se lei dovesse immaginare una strumentazione di incentivi, disincentivi politici di convergenza, sia pure con la fatica di immaginarla condivisa tra paesi molto sviluppati, paesi come l'Europa, paesi in via di sviluppo a tassi molto forti come il Brasile e la Cina in questo 2009. Lei è più favorevole a uno schema di cap and trade, cioè dei limiti di emissione oltre i quali c'è un mercato che si sviluppa per i diritti di emissione compensando chi ne ha di più e chi ne ha di meno, o invece vede soprattutto nelle società avanzate, ma non solo in quelle avanzate, una scelta netta di carbon tax in cui si mette una tassa sulle emissioni per disincentivarla più direttamente? Direi che possono al limite essere adottati cioè entrambi, ma in alternativa. Cioè oggi l'Europa ha fatto la scelta di andare su un cap and trade, cioè tu butti fuori della CO2 nell'aria, devi pagare, devi avere dei crediti che permettano di pagare per poterlo fare. Oppure si può dire si mette una carbon tax all'origine in relazione al contenuto di carbonio che c'ha un prodotto. Ecco, è chiaro che però l'Europa ha scelto la prima strada, adesso non è che si può aggiungere una carbon tax o l'uno o l'altro. Altro. Tre interventi, una cosa rapidissima. Claudio da Prato dice abbiamo una società consumistica, dobbiamo fare i conti. Sì, le società consumistiche però possiamo anche cercare di intervenire a modificare il modo in cui stiamo. Pensiamo al fumo. In Europa, negli Stati Uniti, solo 30 anni fa sarebbe stato difficile pensare che si sarebbe potuto smettere di fumare in pubblico, di ridurre enormemente, cambiare proprio un uso, un costume. Quindi si può anche nella direzione della CO2, che come dice giustamente Salvatore di Bologna non è un inquinante, la CO2 non è un agente inquinante, è un agente che ha un effetto negativo sul clima, probabilmente, che quindi è interesse di tutti cercare di ridurre. Ma come ridurre? Il 40% delle emissioni di CO2 in Europa, nei paesi industrializzati, è dato dalle aziende, quelle che producono energia elettrica e le manifatturiere, ma il 60%, quindi una quota rilevante, è nel residenziale, cioè nelle case, nel riscaldamento, nei trasporti, nelle automobili, nei mezzi di trasporto, aerei, navi, quindi ci sono dei margini enormi di intervento, innanzitutto ad esempio per ridurre le emissioni attraverso una migliore efficienza, cosiddetta efficienza energetica. Fate i conti che se oggi il mondo butta nell'aria circa 30 miliardi di tonnellate all'anno di CO2, se non facessimo niente nel 2050 saremmo a 60, al doppio, e invece se vogliamo stare nei 2 gradi massimo che dice l'IPCC dobbiamo dimezzare, arrivare a 14 miliardi di emissioni, ecco, tra 14 e 60 ci sono 48 miliardi. Questi 48 miliardi di emissioni che dobbiamo cercare di evitare. Come possiamo fare? Bene, il 36% di questi 48 sta nell'efficienza energetica. Allora anche gli incentivi, per tornare alla sua domanda, devono andare nella direzione di spingere i consumatori, le aziende, la società ad andare nella direzione di migliorare l'efficienza energetica. Guardi che l'Italia, molte aziende non le ha delocalizzate perché negli anni 70-2000 è stato uno dei paesi che ha fatto di più in termini di miglioramento dell'efficienza energetica dei propri impianti. Oggi le aziende che producono energia elettrica in Italia, le acciaierie, gli impianti chimici, sì, quelli rimasti, ma sono comunque una quota parte rilevante, hanno dei rendimenti energetici molto elevati. Allora mettiamo in condizione le aziende italiane, ad esempio, di andare in Cina, in India, fare degli investimenti migliorativi dal punto di vista dell'efficienza energetica, e il vantaggio, perché hanno comunque contribuito a ridurre le emissioni di CO2, portarselo però in Europa. Questo è un qualche cosa che ancora non è così evidente, chiaro e fattibile. Noi ci auguriamo, ad esempio, che invece Copenaghen dia una maggiore possibilità dell'utilizzo di questi cosiddetti meccanismi flessibili. Se io faccio un investimento che riduce la CO2 in un'altra parte del mondo fuori dall'Europa, devo comunque portarne un vantaggio anche all'interno dei miei vincoli europei. Stagnano, lei prima diceva un grande mercato tecnologico e ciò che chiedono Cina e i paesi emergenti al mondo avanzato. In parole povere, è un segmento in cui oggi c'è troppo protezionismo, questa è la loro protesta? Beh, c'è troppo protezionismo, c'è anche come dire, da parte loro un atteggiamento simile a quello che potrebbe avere l'Europa in caso venisse meno un accordo globale a Copenaghen. Prima Corazza faceva cenno alla possibilità, io direi al rischio, di introdurre cosiddette tariffe sul carbonio, che sono dei dazi sui prodotti ad alto contenuto di carbonio. È ovvio che questo genere di strumenti, al di là dell'essere molto probabilmente inefficaci e al di là dell'essere costosi, perché semplicemente trasferiscono il costo dal prodotto finito, per esempio, alle sue componenti, e quindi si ribaltano su settori diversi dell'economia, ma non sono chiaramente a impatto zero. Al di là di tutto questo, hanno l'effetto di segmentare, di balcanizzare l'economia globale, riducendo gli interscambi, riducendo la circolazione di tecnologie, quindi paradossalmente finirebbero per probabilmente per avere risultati opposti a quelli desiderati. Quello che io dicevo in riferimento al trasferimento di tecnologie e quant'altro è qualcosa di diverso, cioè qualcosa che riguarda in primo luogo il raggiungimento di accordi di libero scambio tra le diverse aree del globo, libero scambio che riguardi in particolare le infrastrutture energetiche e i processi industriali ad alto consumo di energia. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo con i nostri ospiti. Può venirti tutto facile, puoi avere facili costumi, puoi essere facile al riso o alle lacrime, puoi anche essere un facile ottimista. Ma quello che è facile veramente oggi è avere chi ha Picanto. È arrivata Picanto Easy, benzina o GPL, tua da 5.500 euro, con rate da 55 euro al mese per i primi 2 anni. Picanto Easy, guidare piccante, non è mai stato così facile. Vieni a scoprirla nei concessionari Kia fino al 31 dicembre, facile no? Fogli informativi presso le concessionarie, tag massimo 10,29, salvo approvazione della finanziaria. Strade in diretta. Alcuni incidenti causano incolonnamenti sulla rete autostradale, sulla 7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra Busalla e l'innesto per la 12 Genova-Livorno in direzione del capoluogo ligure. Coda per incidente anche sul tratto appenninico dell'Autosole tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze e sulla diramazione per Pisa tra Cascina e la Firenze Pisa-Livorno in direzione Firenze. Sulla 8 Milano-Varese ci sono code, in questo caso per lavori all'uscita di Arese sulla carreggiata verso Varese. Code per il traffico verso la Svizzera sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Traffico intenso anche sulla 14, si resta in coda tra l'accordo di Casalecchio e Bologna Fiera verso Ancona. Ricordiamo che fino a domani alla Fiera di Bologna è in svolgimento il Motor Show. Attenzione, poi la visibilità è ridotta ancora dalla nebbia su alcuni tratti dell'Autosole tra Orvieto e Caglianello. Prudenza anche sulle autostrade abruzzesi, sulla 24 nebbia tra Tagliacozzo e Valle del Salto, sulla 25 tra Torano e Cocullo. Il numero verde per le vostre segnalazioni è l'800 197 313. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra un'ora. Promo 24. Un'azienda può ritenersi davvero competitiva quando sa investire sul futuro di chi ci lavora. Fondo Artigianato Formazione è il fondo che eroga contributi per la formazione professionale dei lavoratori. Individuare il programma di formazione con Fondo Artigianato è semplice. Sul sito www.fondartigianato.it è possibile scoprire le nuove opportunità con gli inviti primo e terzo 2009 per la realizzazione di attività di formazione continua destinate a sostenere la competitività delle imprese e le conoscenze dei lavoratori. Oppure chiamandolo 06 70 45 400 si possono avere informazioni, conoscere le risorse, informarsi sui tempi, esporre bisogni e fare richieste. 9 in punto. la versione di Oscar. Stiamo parlando della conferenza di Copenaghen che inizia oggi. Ricominciamo con una vostra telefonata. Alberto da Torino, prego Alberto. Sì, buongiorno. Volevo sapere un vostro parere, anche degli esperti in ascolto, sulla quello che viene chiamato Climagate, che è praticamente esploso dagli ultime settimane, e in Italia io non ne sento parlare, trovo solo notizie tramite siti americani, e cioè che sono state trovate, diciamo, hackerate da un hacker dal sito, non mi ricordo più esattamente, dall'Università dell'East Anglia. Alberto, no, c'è chiaro, io ci ho aperto con questo e adesso sentiremo anche l'opinione dei nostri ospiti. Grazie Alberto Altrino. Tullio da Bergamo, prego. Senta, io volevo chiarire una cosa della grossa presa in giro che c'è. Nel momento in cui io vado a Milano, c'è l'EcoPass, se pago posso entrare e inquino, se non pago c'è una multa di 85 euro che viene fuori e non cambia niente. Uno non lo sa bene per dove si vendono o non si vendono, perché uno che viene da fuori chiaramente a Milano non conosce la cerchia dei bastioni. A volte per attraversarla entra dentro e via, poi si ritrova queste multe, però pagando 2 euro perlomeno per la mia macchina, allora a questo punto non inquino più. No Tullio, il problema è che pagando i 2 euro lei tra virgolette compensa il danno, l'esternalità negativa prodotta attraverso il suo inquinamento, non è che non paga più, ma io non è che sto difendendo in questo momento l'EcoPass, spiego la filosofia della questione, che è quella del pagare per un'emissione quando l'obiettivo ovviamente per il pubblico di scelte individuali che si riversano sul pubblico è quello di contenerlo, e questo è uno degli strumenti. Non sto difendendo in questo momento l'EcoPass, i bastioni eccetera, è semplicemente per capire come funziona. Stagnaro, lei che pensa in realtà del Climagate dell'East Anglia? Ma penso che anzitutto sia una brutta vicenda, come sempre quando vengono rubate e diffuse delle conversazioni private. Detto questo, ora che abbiamo letto quelle email non possiamo far finta di non averle lette e non possiamo perdere la fiducia quantomeno nelle persone che le hanno scritte, o almeno alcune di queste persone che occupano dei posti chiave nel processo dell'IPCC, il che non significa che dobbiamo smettere di credere che sia in atto il riscaldamento globale o che le emissioni antropogeniche possano avervi un ruolo, significa solo guardare con sano scetticismo a quegli scienziati che fanno politica e si comportano da politici. Del resto quello dell'IPCC, basta leggere sul sito stesso dell'organizzazione, è un processo politico che coinvolge oltre agli scienziati, coinvolge anche i governi, e quindi, come dire, quello che ne esce va preso un attimino con le pinze. Corazza, lei dovesse giudicare la stewardship dell'Europa, cioè il ruolo politico dell'Europa a questo tavolo. La mia opinione è che uno dei tavoli in cui l'Europa ha il ruolo più riconosciuto, per così dire, che questo poi corrisponda davvero a cose concrete, però mi interessava sapere il giudizio che lei ha formulato nel suo precedente intervento. Diceva, da questo punto di vista c'è stata una svolta internazionale, ed è vero anche secondo me. Questa svolta può far bene anche all'Europa, non so se è chiara la mia domanda, perché oltre al mondo, ma non è che ci serve anche a noi un pochino essere più coesi e su obiettivi capaci di tradursi in cose concrete e condivise? Assolutamente sì, è una grossa occasione politica, oltre che in termini di competitività per l'Europa. È una delle questioni su cui la nostra opinione pubblica ci sostiene, largamente maggioritaria, quasi il 70% degli europei ritiene che il problema clima sia uno dei problemi più gravi. La classe dirigente europea, con qualche piccolissima eccezione, direi solo in Italia, è molto coesa su questo. Anche le Confindustrie in qualche modo sono abbastanza coese, ritengono che sia un'opportunità per rilanciare la competitività europea e evitare il nostro declino. Molti puntano sui brevetti verdi, c'è la consapevolezza che siamo alla vigilia di una grande rivoluzione industriale, anche dal basso, anche portata dalle scelte dei consumatori sempre più consapevoli. Siamo il primo mercato al mondo, un quarto degli scambi passa da noi, facciamo noi gli standard industriali, quindi veramente su questo possiamo avere una leadership politica oltre che economica e tecnologica. Sulla leadership tecnologica, al centro del negoziato di Copenaghen c'è il trasferimento di tecnologie all'India, alla Cina e agli altri paesi in via di sviluppo emergenti, quindi non mi sembra che sia una questione dimenticata. Si è anche parlato di cifre, si parla di 100 miliardi di euro l'anno, di cui una parte saranno pagate dagli europei, una parte dalle aste. Questi soldi andranno proprio a sostenere il trasferimento di tecnologia. C'è anche una questione naturalmente di diritti, di proprietà intellettuale su questo, ma al di là di tutto mi interessava con Fumagalli terminare questa nostra trasmissione proprio con una riflessione sulla parte delle nostre imprese, quelle italiane e quelle europee. In quest'anno naturalmente tutti sono tendenzialmente pronti a scommettere che in un anno così difficile si tagliano gli investimenti sulla clean economy, cioè sulla frontiera più avanzata del miglioramento del rendimento termodinamico e così via. Ho la netta sensazione che bisognerebbe fare l'esatto opposto. Come si possono conciliare queste due contrapposte esigenze delle imprese che in tante occasioni, tranne le grandissime, ma insomma anche loro, devono contenere quest'anno rispetto alla necessità invece di andare avanti più seccamente sulla frontiera che però è anche quella ad più alta intensità di capitale? Ma con sfide sostenibili, cioè con programmi che siano raggiungibili. Vede, gli Stati Uniti, e questo sarà uno dei problemi di Copenaghen, dicono questo: io posso ridurre, forse, perché devono ancora approvare la legge, al 2020 le emissioni del 4% rispetto al 90%, nel 2025 del 18% e nel 2030 del 32%. Cioè danno un orizzonte che va al 2030. Perché? Perché le tecnologie che pensano di mettere in moto per ridurre le emissioni non sono tecnologie che in 4, 5, 10 anni possono avere effetti, ma hanno effetti in un percorso più lungo, in 20 anni, magari arrivando anche al 32% appunto di riduzione, ma al 2030. L'Europa oggi è ferma al 2020, cioè noi vogliamo ridurre del 20% le emissioni al 2020, e qualcuno dice anzi potremmo anche andare al 30%, è un orizzonte molto vicino. Ecco, i percorsi tecnologici e innovativi per l'obiettivo europeo al 2020 sono molto costosi, e in alcune tecnologie, penso alla conservazione e cattura della CO2 sottoterra, impensabili, perché ci vuole più tempo del 2020 per rendere commerciali queste tecnologie, il carbone pulito con la CO, con la capture storage. Gli americani dicono andiamo al 2030, qui sarà un problema, e penso che o l'Europa convince gli americani a tornare a un obiettivo tipo il nostro europeo al 2020, o sarà l'Europa a dover riproporre un percorso anche più ambizioso, riduzione oltre il 30% al 2030, ma forse più sostenibile anche per le aziende e anche per il nostro sistema. E magari anche Cina e India a quel punto saranno disponibili a assumersi una parte della responsabilità a cui non possono sottrarsi. Io sono convinto che non debbano e non possono sottrarsi per i loro figli, perché la Cina, non dimentichiamo, vuole diventare la più grande economia del mondo, l'hanno detto, l'hanno dichiarato, ma deve essere anche un'economia sostenibile, non bastano gli aiuti finanziari, certo, del resto del mondo, deve anche con le sue gambe essere capace di fronte all'umanità di assumersi anche le responsabilità che un ruolo di potenza economica leader le propone. Io ringrazio Fumagalli. Stagnaro Corazza, avete visto che Obama, invece che tutta la durata, andrà solo alla fine per dare la botta finale. Questo speriamo che sia una prospettiva che scommette su un grande accordo realistico. Il realismo, come avete visto, è stata la cifra di questa nostra trasmissione. A me non piace molto esagerare con le svolte. Il realismo forse è quello che ci può portare davvero a un grande accordo con obiettivi perseguibili. E con questo io ringrazio la regia Petra Bescaper, adesso come sempre Alessandro Marco Turli, la linea del giornale radio, l'appuntamento è a domani. Radio 24. La passione si sente. Per il successo di un'azienda, il lavoro non è tutto. Ci vuole passione, ci vuole innovazione, ci vuole tecnologia, ci vuole agilità, ci vuole un partner di fiducia. Ci vuole Solgenia Group, il produttore italiano di software e tecnologie per il business più innovativo. Solgenia, Gruppo Pro e Alcol, insieme per dare più valore alla tua impresa. Info su solgeniagroup.com. Solgenia Group, per un business di successo. Regali di Natale? No, non ne voglio parlare. Ogni anno si spendono un sacco di soldi e non si sa mai cosa regalare. E se le dico Foppa Pedretti? Regali utili, funzionali, tutti in legno e costano meno di quello che pensa. Foppa Pedretti? Parliamone! Assicurazioni? Ce ne sono tante. Quelle che danno il meglio per due mesi, quelle che risponde sempre Guido e anche quelle con i superpoteri. Io ho scelto Dialogo, perché volevo un RC auto semplice, economica e con un ottimo servizio. Facile, no? Chiama l'800 33 11 66 o vai su dialogo.it. Dialogo, dove tu vali di più. Io sto bene, tu stai bene, lei sta meglio. Io sono stata al mare, tu in montagna, lei è stata alle terme dell'Emilia Romagna. E perché non ci andiamo anche noi? Alle terme dell'Emilia Romagna è diverso. È solo lì che il benessere si fonde con il piacere. Borghi romantici e ristoranti tipici, cure termali ai massimi livelli e il piacere di vivere, unico della nostra terra. Concedetevi una vacanza termale in Emilia Romagna. Le terme e l'Emilia Romagna. Niente di meglio. Richiedi la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50. Scopri il Natale Troni. Tanta tecnologia per regali esclusivi per te e per tutta la tua famiglia. Come la nuova gamma di fotocamere e videocamere digitali delle migliori marche. Perché dal 10 al 31 dicembre Troni è tecnologia al top per un Natale su misura. Troni, non ci sono paragoni. Quando Fiat Professional rivelò per la prima volta il prezzo di Fiorino Metano, in cielo si fece silenzio. Gli increduli cominciarono a credere. Verdurieri, idraulici e pure i carpentieri intonarono canti di gioia. Ecco il nuovo miracolo economico. Fiat Fiorino Benzina Metano a soli 3.990 euro incentivi statali inclusi. 11 euro per un pieno di metano, quasi 1.000 km di autonomia complessiva. Fino al 31 dicembre per i veicoli in consegna entro il 31 marzo 2010. Fiorino Metano in tutte le concessionarie Fiat. Tutto Villa, storia di una voce. Serenata messicana, Ciribiribin, Granada, Luna Rossa o Sole Mio. Il grande Claudio Villa in una raccolta imperdibile. Chitarra romana, ma la femmina, non pensare a me. Tutto Villa, 40 successi in 2 CD a 12,90 euro, nei negozi e nelle edicole. Lei che è un imprenditore artigiano, cosa vuole per la sua impresa? La sicurezza di trovare soluzioni tecnologiche su misura, con tutte le offerte che ci sono. Confartigianato